Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Prendo atto della dichiarazione del governo turco che ammette l'esagerato uso della forza da parte della polizia contro i manifestanti durante le recenti proteste a Istanbul. Questo è il messaggio dichiarato oggi a Strasburgo dal segretario generale del Consiglio d'Europa. Si tratta di Thorbjørn Jagland, che è anche il responsabile del premio Nobel. Questo ha detto al quotidiano Hürriyet, il quotidiano principale della Turchia, auspicando naturalmente una moderazione negli interventi sui manifestanti. La Commissione europea si appresta ad annunciare di aver deciso di imporre dazi sulle importazioni di pannelli solari dalla Cina, nonostante le contrarietà di vari stati, tra cui la Germania, e le esplicite minacce di rappresaglie da parte dei cinesi. Secondo France Press, infatti, la decisione verrà presa addirittura oggi, tra non molto, e verrà seguita da una conferenza stampa del commissario europeo al commercio Karel De Gucht. Staremo a vedere naturalmente nelle prossime edizioni. Intanto, decisione già presa per l'europarlamentare leghista Mario Borghezio. È stato dunque espulso dal gruppo Europa per la Libertà e la Democrazia, il più euroscettico gruppo parlamentare, peraltro, a Strasburgo. Sentiamo. Dichiarazioni ripugnanti. Con questa motivazione il presidente del gruppo euroscettico IFD, Nigel Farage, noto in Gran Bretagna per essere a capo delle crociate antieuropee dello UK Independence Party, ha cacciato dal gruppo europarlamentare il politico leghista Mario Borghezio, che a fine aprile su Radio 24 aveva insultato il neo ministro all'integrazione Cécile Kyenge. Per quelle frasi a sfondo razzista, l'associazione Articolo 21 aveva presentato al presidente dell'Europarlamento, Martin Schulz, una petizione con 130.000 firme di protesta. Farage ieri è stato chiaro: i commenti di stampo razzista sono inaccettabili. Per Borghezio i margini di permanenza nel gruppo apparivano da giorni improbabili. L'Independence Party, azionista di maggioranza dell'Europa per la Libertà e la Democrazia, aveva posto un chiaro out-out agli altri partiti, tra cui la Lega Nord, o noi o Borghezio. A votare per l'espulsione dell'europarlamentare leghista, non nuovo a uscite estreme, sarebbe stata una larga maggioranza dei 34 membri che compongono il gruppo. Da Borghezio è giunta una parziale autocritica, seguita però da un attacco personale allo stesso Farage. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Molti hanno pensato che il bersaglio di quegli insulti fosse io, ma in realtà quelle offese sono state indirizzate ad ogni cittadino italiano. Così il ministro per l'integrazione, Cécile Kyenge, aggiungendo che la risposta è poi arrivata dalle istituzioni e da una parte della società civile. È dedicata all'Europa l'edizione di quest'anno dei Dialoghi di Trani, un festival che si tiene nella cittadina pugliese dal 6 al 9 di giugno. Scrittori, saggisti, esperti che si confrontano sul futuro complicato dell'Unione, partendo però dal principio che gli italiani non si sentono ancora abbastanza europei. Alessandra Tedesco ne ha parlato con Thierry Vissol, rappresentante in Italia della Commissione europea. Non so se non si sentono europei, non andrei fino a questo punto. Quello che è assolutamente chiaro, e non solo in Italia, è che molta gente ha pensato o pensa che l'euro sia legato alla crisi attuale. È stato molto facile per tutti i politici che hanno fatto errori per anni e anni di dire che finalmente i loro errori non era colpa loro ma colpa dell'euro. Invece non è così. E dunque quello che deve cambiare non è l'euro, non è l'Unione Europea, ma la politica interna, che deve concentrarsi sulle riforme che non sono state fatte e che sono assolutamente necessarie per uscire dalla crisi. Sono Federico Taddia e oggi vi segnalo la mostra Un Caravaggio per l'Europa, la cena in Emmaus della Pinacoteca di Brera di Milano a Zagabria, promossa dalla Farnesina e dall'ambasciata italiana in Croazia. Il celebre quadro di Caravaggio è infatti il regalo di benvenuto che l'Italia fa alla Croazia in occasione del suo ingresso nell'Unione Europea dal 1 luglio. La cena in Emmaus, dipinta nel 1606, rimarrà ospite del Museo dell'Arte e dell'Artigianato di Zagabria fino al 31 agosto e ogni sabato verranno organizzati laboratori per le scuole superiori. Per saperne di più su questo prestito artistico, segno dell'impegno italiano per l'allargamento verso l'Europa sud-orientale, il sito di riferimento è www.ambzagabria.esteri.it. Un prestito dunque di benvenuto ai vicini croati. Con questo abbiamo concluso l'appuntamento naturalmente con Europa 24 domani poco dopo le 13.15. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.